Negli anni molti progetti ci hanno permesso di occuparci di violenza sui minori e dal 2001 l'associazione ha voluto creare anche delle figure professionali specializzate come psicologhe ed educatrici, non solo esperte sul tema della violenza sulle donne, ma con una competenza specifica sui minori, per potergli offrire un aiuto concreto nella rielaborazione del trauma subito tra le mura domestiche. Dall'inizio ci siamo chiesta, accogliendo le donne al centro, come stessero i bambini e le bambine. E nel 2005 abbiamo iniziato un enorme e prezioso lavoro del nostro gruppo Femminicidio, che oltre a raccogliere le informazioni sui femminicidi, per capire chi erano le donne che ne restavano vittime, chi i loro autori, dove si svolgevano questi drammatici eventi, ha avuto modo di sfatare molti luoghi comuni intorno a tali delitti e della violenza contro le donne in generale. Ci siamo chieste che cosa ne è degli orfani di donne uccise per mano del marito o del partner, come vivono la loro vita. Da lì la nostra partecipazione nel 2014 al primo progetto in Italia sugli orfani, condotto da Anna Costanza Baldri, ed ora, con enorme piacere, partecipiamo al progetto Orfani di Femminicidio, Vittime Invisibili. Le testimonianze raccolte fino ad oggi rivelano storie di profonda solitudine e difficoltà anche pratiche e materiali, sia da parte degli orfani che dei loro caregiver. Dobbiamo garantire risposte adeguate ai loro bisogni e non dimenticare che spesso sono vittime di una cultura e di un sistema che non ha avuto la capacità di intervenire efficacemente per impedire il femminicidio. Sappiamo anche che uno sradicamento così violento dagli affetti ha conseguenze gravi. Chi subisce questo trauma, o addirittura assiste all'uccisione della madre, è un soggetto ad alto rischio di disturbo post-traumatico cronico, di suicidio, devianza, abuso di sostanze, depressione, un dolore enorme da gestire, impensabile. L'obiettivo comune è quello di promuovere lo sviluppo di pratiche e saperi efficaci nella presa in carico degli orfani e delle famiglie, per non lasciarli più nella condizione di invisibilità, bensì sostenuti da una comunità più accogliente e responsabilizzata.